La storia e la memoria di Dino Pesole. Che relazione c'è, se c'è una relazione, tra il famoso discorso che il leader del Partito Comunista Italiano Palmiro Togliatti pronunciò a Bergamo il 20 marzo del 1963, discorso che ebbe come titolo Il destino dell'uomo, e la promulgazione proprio in quegli stessi giorni, era l'11 aprile del 63, da parte di Papa Giovanni XXIII dell'enciclica Pacem in Terris. Un'enciclica, lo ricordiamo, per molti versi rivoluzionaria nella storia della Chiesa, che ebbe un impatto fortissimo sulla società italiana e sull'intera comunità internazionale. Tra i due eventi, se si esclude la coincidenza temporale, in apparenza non parrebbero esservi elementi di correlazione. Eppure in entrambi questi eventi è possibile cogliere non solo lo spirito dei tempi, ma anche la comune aspirazione a gettare un ponte nel futuro. Un futuro in cui il dialogo, la collaborazione tra il movimento operaio e il mondo cattolico erano una tappa obbligata. L'argomento è al centro del volume appena pubblicato da IDS, dal titolo Palmiro Togliatti e Papa Giovanni, 50 anni dopo il discorso Il destino dell'uomo e l'enciclica Pacem in Terris, a cura di Francesco Mores e Riccardo Terzi. Ne parliamo questa sera proprio con uno dei due curatori, Francesco Mores. Buonasera e benvenuto. Buonasera, benvenuto anche a lei. È in corso la campagna elettorale del 1963 e il segretario del PCI si impegna in un'operazione politica ambiziosa, quella di costruire il terreno per una collaborazione tra il movimento operaio e il mondo cattolico sui grandi temi del nostro tempo, a partire dalla necessità di salvare l'umanità dalla minaccia della guerra nucleare. Bergamo è una città di fortissima tradizione cattolica ed è anche la terra d'origine di Papa Giovanni XXIII. È dunque chiaro l'intento di costruire un ponte con tutto il movimento riformatore che sta cambiando in profondità gli orizzonti culturali della Chiesa Cattolica, con l'impulso decisivo del pontefice che segna davvero una svolta nella storia della Chiesa. Dopo pochi giorni, l'11 aprile, viene promulgata l'enciclica Pacem in Terris, nella quale giungono a piena maturazione i nuovi orientamenti dottrinali della Chiesa Cattolica della comune condizione umana. L'uomo, osserva Togliatti, deve creare una società alla dimensione della propria libertà. Si può quindi dire che la nostra è, se si vuole, una completa religione dell'uomo. Ed ecco uno dei passaggi più significativi dell'enciclica Pacem in Terris. Riaffermiamo noi pure quello che costantemente hanno insegnato i nostri predecessori. Le comunità politiche, le une rispetto alle altre, sono soggetti di diritti e di doveri. Per cui anche i loro rapporti vanno regolati nella verità, nella giustizia, nella solidarietà operante, nella libertà. La stessa legge morale che regola i rapporti fra i singoli esseri umani, regola pure i rapporti tra le rispettive comunità politiche. Ciò non è difficile a capirsi quando si pensi che le persone che rappresentano le comunità politiche, mentre operano in nome e per l'interesse delle medesime, non possono venire meno alla propria dignità e quindi non possono violare la legge della propria natura, che è la legge morale. Sarebbe del resto assurdo anche solo il pensare che gli uomini, per il fatto che vengono preposti al governo della cosa pubblica, possano essere costretti a rinunciare alla propria umanità, quando invece sono scelti a quell'alto compito perché considerati membra più ricche di qualità umane e tra le migliori del corpo sociale. Ecco, allora Francesco Mores, parliamo un attimo di questi elementi che in qualche modo legano due fatti apparentemente, eventi apparentemente distanti tra di loro, ma che comunque, come abbiamo tentato di raccontare finora ai nostri ascoltatori, presentano però dei tratti comuni. Sì, cominciamo col dire che intorno a questi due testi esiste una sorta di memoria che è molto diversa dalla loro storia, almeno in parte diversa dalla loro storia, cioè esiste un'idea che è stata veicolata soprattutto negli anni Ottanta, in base alla quale tra questi due testi esisterebbe un rapporto diretto, cioè in qualche modo Togliatti sarebbe venuto a conoscenza prima che l'enciclica fosse promulgata, abbiamo sentito appunto l'enciclica viene promulgata l'11 aprile, il discorso di Bergamo è di 20 giorni prima, dicevo Togliatti sarebbe venuto a sapere in anticipo alcuni dei contenuti della Pacem in Terris. Ecco, alcuni dei saggi che noi abbiamo raccolto in questo testo, tra cui anche il mio, cercano di smentire questo legame diretto, però anche rispetto ai due testi che abbiamo appena sentito, le analogie sono diverse. Direi che un punto centrale, che è rilevante soprattutto in Togliatti più che nel testo di Papa Giovanni, è questo riferimento alla religione dell'uomo. E perché in qualche modo noi troviamo questa religione dell'uomo, anche se declinata in maniera diversa, perché è importante capire che tra i due testi comunque esiste una grossa differenza. Dicevo, perché questa religione dell'uomo può essere un punto di contatto, perché questa religione dell'uomo, o meglio l'uomo, in quel momento particolare, in quel momento storico particolare, è minacciato dalla guerra nucleare. Togliatti e Roncalli hanno ben presente il momento storico nel quale questi due testi vengono pronunciati. C'è appena stata la crisi dei missili cubani, il momento in cui davvero il mondo sembrava per cadere nell'abisso. Quindi questi due testi riflettono, arrivano a questo riferimento alla religione dell'uomo, soprattutto dicevo Togliatti, di fronte a questa pressione che è esercitata sugli eventi. Poi naturalmente nella memoria questi due testi sono stati associati anche a un'idea di umanesimo, per cui il comunismo da una parte e il vasto mondo cattolico rappresentato in questo caso da Papa Giovanni avrebbero trovato un punto di contatto nell'umanesimo. Però è importante capire che le analogie sono molte, ma anche le differenze sono molte. Certamente. Certo. A proposito di questo, sì, mi scusi se le interrompo, centralità dell'uomo, e si capisce appunto il periodo storico in cui i due eventi si realizzano, sì, ma al di là di questo è possibile cogliere in questi due eventi, in questi due testi così importanti, delle analogie che proiettano comunque il significato di quello che Papa Giovanni e Togliatti volevano rappresentare in quel momento, anche come una specie di ponte verso il futuro, cioè il dialogo tra il movimento cattolico, il movimento operaio, insomma, sono temi di grandissimo rilievo in quegli anni e anche dopo. Sì, certo, direi che però non bisogna confondere la dimensione, diciamo, politica con la dimensione invece ideale che c'è in questi testi, nel senso che nel testo di Togliatti c'è un elemento che diventa un elemento fondamentale nel dialogo, che diventerà poi un elemento fondamentale nel dialogo tra cattolici e diciamo comunisti, ed è il rifiuto dell'ateismo in un certo modo, nel senso che Togliatti attraverso un percorso molto lungo che arriva poi a questo testo rifiuta la prospettiva dell'ateismo. E questo, capisce, è un elemento non secondario, soprattutto se nella prospettiva di un dialogo tra due mondi, non tanto tra due mondi politici, quanto tra due mondi che trovano proprio nell'uomo il loro punto di contatto. Spesso questi due testi vengono accostati, o meglio vengono considerati una sorta di prefigurazione del compromesso storico. Sì. Ecco, io eviterei, non interpreterei così questi due testi, cioè il discorso che questi due testi fanno è diverso, è un discorso che si colloca su un piano più alto e quindi forse anche più vero da un certo punto di vista, insomma. C'è da dire che questi due testi, soprattutto nel campo cattolico, Pacem in Terris sollevò anche molte perplessità, diciamo, perché questa apertura verso un mondo che fino a quel momento era stato guardato con un occhio, diciamo, diverso, sollevò dei problemi, delle difficoltà, insomma. Nel campo comunista invece immediatamente si percepì che questo testo segnava una svolta completa da un punto di vista anche, se posso dire così, teorico e anche filosofico, insomma. Quindi distinguerei però attentamente quella che è la storia di questi due testi invece dalla memoria che questi testi hanno generato, insomma. Infatti anche lo stesso Togliatti, in un passaggio del suo discorso Il destino dell'uomo, a un certo punto dice: non è mia intenzione fare un confronto di ideologie, quella religiosa da una parte e quella marxista dall'altra. Certo. E quindi questo è un elemento che avvalora appunto la tesi che lei esponeva poc'anzi. Sì, perché perché diciamo che in questo testo non c'è chiaramente un rifiuto del marxismo da parte di Togliatti, però c'è una riformulazione del marxismo sulla base di premesse completamente nuove, che sono le premesse che poi effettivamente consentiranno il dialogo, ma consentono un dialogo appunto che non si svolge su un piano, che non si svolge su un piano ideologico, si svolge sul piano di quella che allora era un'emergenza e in qualche modo anche una necessità. Insomma, è importante capire che i punti di contatto sono molti, ma non vanno esagerati, insomma, e quindi un dialogo dal punto di vista di un certo tipo di umanesimo, ma sapendo che l'umanesimo marxista e l'umanesimo cattolico sono cose completamente diverse, insomma. Nonostante questo, rispetto a ciò che fino ad allora era avvenuto, un'apertura che non si svolge sul piano della politica concreta, ma si svolge sul piano di principi e di valori che non vengono messi in comune, ma vengono però inseriti all'interno di un dialogo che prima non esisteva, insomma, tra questi due mondi. Certo, principi e valori che attengono all'ultima questione che voglio sottoporle, anche i compiti dei poteri pubblici. Questo è un passaggio importante che è possibile cogliere in entrambe gli scritti, no? Cioè, il riferimento al fatto che comunque i poteri pubblici hanno dei doveri e dei diritti, ma insomma viene riaffermato in modo piuttosto palese anche dal punto di vista etico questo principio. Sì, certo, anche su questo naturalmente non... Con differenze, certo. Sì, con differenze abbastanza forti, nel senso che comunque viene riconosciuto una sorta di spazio, soprattutto parlo della pacem interis, uno spazio di autonomia dei poteri pubblici, e questo non è un elemento di secondaria importanza rispetto a quella che era stata fino ad allora la posizione della Chiesa romana. Tuttavia questi poteri pubblici devono essere guidati dalla ragione. E qual è la ragione? O meglio, chi è il datore ultimo della ragione? Nel caso della pacem interis evidentemente è Dio, nel caso invece di Togliatti la dimensione rimane comunque una dimensione, come posso dire, anche di internazionalismo, nel senso che il discorso di Togliatti è un discorso che viene, che anche risvolti politici immediati, di lì a poco ci saranno le elezioni e naturalmente ci sarà un'avanzata anche del PC. E Togliatti non separa completamente le sorti del Partito Comunista Italiano da una dimensione sovranazionale. Grazie, grazie, la ringrazio, abbiamo esaurito il nostro tempo e buona serata. Grazie, arrivederci.